appuntamento quel boulevard di Saint Germain. C'è sempre tanta gente qui, ma lei dov'è? E poi la vedo arrivare, 2 ore e poi devo partire, Parigi addio, oh oh, ritornerò, Parigi addio. Sono triste, riuscirò, io che francese so parlarlo, solo un po', le può lo stesso capire, peccato doverti lasciare Parigi, addio, oh oh, ritornerò. Parigi ha visto morire una breve vacanza d'amore, Parigi addio, oh oh, ritornerò, chérie addio. Breve vacanza d'amore, Parigi addio.